sulla fortuna, e con i denti l'ho trovata, ed in faccia al rischio, quante volte ho creduto di aver finito il mio show e dover tornare indietro. Il sopravvissuto non è un tipo che lascia sola la gente come me. Non corre forte, ma piano va. Non so dove, ma ci arriverà. Cento e cento volte ho smarrito la mia strada, ma con la fortuna e con i denti l'ho trovata, ed in faccia al rischio quante volte ho creduto di aver finito il mio show e dover tornare indietro. Sopravvissuto, miracoli non fa, cerca solo la felicità. Se gli porti amore, amore ti darà, senza chiedere mai la verità. E dover tornare indietro. Il sopravvissuto una casa non ce l'ha, ma nel cuore di tutti ora sta.